reportage. Madrid dopo il voto. Come cambia il dialogo con l'Europa? Di Sergio Nava. Buongiorno da Madrid, ci troviamo di fronte al Museo Reina Sofia, uno dei monumenti culturali più importanti della città, dove si sta tenendo la festa di Podemos subito dopo le elezioni. È strano che un partito arrivato terzo festeggi, ma mai come in questo caso è un segnale di cambio importante. In questo reportage da Madrid, dalla Spagna, però andremo a capire soprattutto qual è lo stato dell'economia spagnola dopo la crisi e quali sono i rapporti anche difficili con l'Europa, soprattutto in tema di riforme. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero anno e felicità. Elezioni natalizie, elezioni rebus, quelle svoltesi lo scorso 20 dicembre in Spagna, soprattutto per il quadro politico estremamente frammentato che ne è uscito in una fine del bipartitismo tradizionale popolari socialisti, che ha lasciato spazio a un quadripartitismo di fatto con Podemos e Ciudadanos. Ma come si è comportata la Spagna negli anni della grave crisi che l'ha colpita e del bailout bancario concesso dall'Europa a fine 2012 per evitare il collasso del sistema finanziario? A metà ottobre Bruxelles ha parzialmente rispedito al mittente la manovra 2016 presentata da Mariano Rajoy. Partiamo da qui, con la nostra intervista a Carlos Martín Ruiz de Cordejuela, portavoce della Commissione Europea a Madrid. Complessivamente la Commissione pensa che il piano di bilancio presentato dalla Spagna il mese di settembre scorso sia a rischio di mancata conformità con gli obblighi del patto di stabilità e crescita. Il miglioramento del rapporto deficit-PIL verso una correzione sotto la soglia del 3% entro il 2016 sembra soprattutto dipendere su una rinnovata crescita del PIL nominale e su aspettative di crescita che secondo la Commissione possono essere troppo ottimiste. Allora, secondo la stima della Commissione, si aspetta che la Spagna non sia capace di raggiungere l'obiettivo prefissato di deficit per il rapporto con il PIL per il 4,5%. 4,5% sarebbe la previsione della Commissione, invece il governo spagnolo ha presentato un obiettivo di 4,2% per il 2015. Per il 2016 la previsione della Commissione europea sarebbe di un deficit del 3,5% con rapporto di un 2,8% che ha presentato la Spagna. C'è un rischio di non compimento. A inizio dicembre avete presentato un rapporto sullo stato dell'economia spagnola. Quali sono i punti salienti in questa analisi sul post-crisi e post-salvataggio bancario? La ripresa economica della Spagna è stata forte, soprattutto nella prima metà del 2015. Ha mostrato una crescita del PIL molto superiore alla media dell'area dell'euro. E ci sono dei indicativi molto positivi come un recupero della domanda interna, soprattutto dal consumo interno dell'investimento, ma comunque è una situazione dove ci sono ancora qualche squilibri, soprattutto nel mercato di lavoro dove il tasso di disoccupazione è molto elevato. Il portavoce della Commissione spiega come il settore bancario spagnolo, oggetto del bailout, si sia stabilizzato negli ultimi tempi. È migliorata la qualità degli assets, c'è un più ampio accesso al credito e una maggiore solvenza degli istituti stessi. La ristrutturazione è andata bene, ma la privatizzazione di alcune banche pubbliche non è progredita molto nell'ultimo semestre, accusa Bruxelles. E c'è un punto su cui è importante tornare perché stride molto coi tassi di crescita elevati, la disoccupazione. Su questo Davide Grasso, data journalist per il giornale online El Confidencial, ha svolto un'indagine approfondita. Lo abbiamo incontrato nel centro di Madrid. La disoccupazione resta un problema grosso. Abbiamo visto come in questi 4 anni il mercato del lavoro è stato un po' un'altalena, nel senso che partivamo da una situazione difficilissima nel 2011, dove si è arrivati a toccare quasi il 27% dei tassi di disoccupazione, a superare il 55% di disoccupazione tra i giovani. La situazione è andata peggiorando poco a poco finché praticamente nel 2013 c'è stato questo movimento un po' anche a seguito delle riforme, per cui adesso diciamo i numeri non permettono fare festa, però almeno siamo al di sotto del 25%, siamo intorno al 22%, la disoccupazione giovanile anche è scesa al 50%, di poco è sul 49%, però almeno anche solo quel livello psicologico del 50% è sceso. Questa è una una parte, dall'altro è anche vero che il mercato del lavoro è cambiato moltissimo, perché la Spagna, essendo comunque un paese molto basato al turismo e ai lavori legati alle stagioni, una cosa che è successa è che prima non c'era è stata la precarizzazione del mercato del lavoro. Questa precarizzazione, che in Spagna era molto, molto meno presente che in Italia fino a prima della crisi. Il precariato è quasi una parola nuova qua, diciamo, c'era ma non era così presente come adesso. In questo momento, di ogni 10 contratti che si fanno, 9 non sono a tempo indeterminato, sono a tempo determinato, e un terzo dei contratti sono a giornata parziale. Quindi si sta scoprendo appunto questo mercato del lavoro in cui c'è stata una creazione di posti di lavoro, se ne sono creati quasi 1 milione dall'inizio della legislatura durante il governo di Rajoy, ma un mercato del lavoro molto diverso. La Commissione europea, tra l'altro, insiste per riformare ulteriormente il mercato del lavoro, soprattutto per renderlo meno duale. È una richiesta giusta, una richiesta condivisibile? È una richiesta che dal loro punto di vista ha il suo senso, infatti non a caso vari partiti l'hanno raccolta nei loro programmi elettorali, per esempio Ciudadanos, iniziamo a parlare di un contratto unico per eliminare totalmente questa dualità molto forte. La prima riforma del lavoro del governo Rajoy è una parte che quasi non aveva preso in considerazione, no? Quindi che ci sia ancora qualcosa da fare, che soprattutto vari partiti l'hanno approfittato per metterlo in programma elettorale, è abbastanza interessante. Quello che è successo in Spagna è stato che c'è stata una diminuzione importante della popolazione attiva, cioè di quella che può lavorare. Quindi se ci mettiamo a guardare, il tasso di disoccupazione effettivamente sì, è sceso, però perché è sceso? Soprattutto perché la popolazione che può lavorare è diminuita. Quando amanece il día y el cielo pinta tus ojos negro, vaya suerte la mia. Torniamo ora ad analizzare la situazione economica spagnola e il suo rapporto con l'Europa da due angolature diverse. La prima in chiave iberica con un economista, la seconda con un'ottica invece più italiana. Iniziamo dall'intervista con Pascual Fernández, presidente del Colegio de Economistas di Madrid. Sin ninguna duda, la relación es... Senza dubbio le relazioni con l'Europa sono molto importanti, ma non penso che le differenze tra Madrid e Bruxelles sul budget siano così rilevanti, ci spiega Fernandez. Stiamo parlando di decimali, 2-3 miliardi di differenza tra le stime iberiche e quelle europee. Ciò che ha maggiormente preoccupato Bruxelles è stato il sospetto che l'ultimo bilancio fosse nei fatti mirato alle elezioni, con tagli fiscali. Tuttavia in questo momento, nonostante i tagli, il gettito dell'erario sale, grazie alla crescita economica. Di questo si occuperà il prossimo governo, ma ribadisco, le differenze non sono poi così rilevanti. Io credo che le differenze non sono tan importanti, non sono tan rilevanti. Sì. Dove si trova la Spagna oggi dopo il salvataggio bancario? Chiediamo a Pascual Fernández. Io credo che sia stato un esito. Io penso ne sia uscita con successo. Le riforme degli ultimi anni sono state un successo. Se guardiamo ai 5 grandi paesi europei, siamo quello con la crescita più solida e sostenuta. Il settore del commercio estero si sta espandendo in modo notevole. Madrid sta conquistando quote nel commercio internazionale di beni e servizi. Ora però occorre consolidare questo processo. Anche Giovanni Aricò, direttore generale della Italcamera di Commercio a Madrid, è ottimista sull'esito dei negoziati tra Madrid e Bruxelles in tema di budget. Io credo che difficilmente la Spagna aprirà un braccio di ferro con l'Europa. Le conseguenze della bocciatura del budget sono evidentemente il frutto anche di un lavoro poco attento, a mio avviso, che è stato fatto proprio perché di un governo uscente preoccupato per le elezioni. Il nuovo governo, che questa è la grande incognita, dovrà ovviamente sciogliere questo nodo e anche dei rapporti con l'Europa. Come guardano i rapporti con Bruxelles e l'Europa le due forze politiche uscite nei fatti vincitrici dalle elezioni del 20 dicembre? I popolari, forti della maggioranza dei voti, e Podemos, trionfatrice morale delle elezioni, con oltre il 20% dei consensi che l'hanno resa terza forza politica? Iniziamo con il Partito Popolare. A Madrid abbiamo incontrato Antonio López Istúriz, eurodeputato del PP, ma soprattutto segretario generale del Partito Popolare Europeo, che prima attacca il commissario europeo all'economia Moscovici, autore della bocciatura del bilancio iberico. Una cosa buona che il Partito Popolare ha lasciato è che il bilancio per l'anno prossimo sta approvato e sotto la questione del commissario Moscovici, io sempre convido al commissario Moscovici a fare questo tipo di dichiarazione anche per governi socialisti, mai lo fa, e sempre sta pronto a criticare governi del Partito Popolare Europeo, ma mai di sinistra. Aspetto in prossimo futuro che lui abbia questo equilibrio nella sua dichiarazione. Poi però López Istúriz si mostra più conciliante e apre al dialogo con Bruxelles. Sono sicuro, il governo ha fatto il suo lavoro, ha cambiato qualche cosa e penso che sarà approvato per Bruxelles. Spagna, la Spagna, il budget della Spagna non è il problema, sono di altri paesi, più che la Spagna. Non vedo questo come un problema immediato. Come vede il dialogo con la Commissione europea? Noi continuiamo con la nostra relazione speciale che sta salutata da tutti i governi europei, perché la recuperazione spagnola è anche importante per la recuperazione dell'Europa. E seguirete le ricette che Bruxelles vi ha chiesto a ottobre? No, nessun segreto in questo, tutto il mondo deve seguire, anche l'Italia. Dal Partito Popolare a Podemos, il giorno dopo le elezioni il leader Pablo Iglesias è stato chiaro, tuonando contro il fronte dell'austerità e con la stessa cancelliera tedesca Merkel. La Spagna non sarà la periferia della Germania, ha dichiarato Iglesias in conferenza stampa, come lui la pensano in molti dentro il partito. Andrés Sanz, rappresentante di lista di Podemos, che abbiamo incontrato in un seggio elettorale. Il governo PP ha gestito la crisi come se è stata gestita a livello europeo, vuol dire austerità, diritti fondamentali completamente sulla minaccia di recortes, di riduzioni. E il Partito Popolare Europeo è veramente Merkel, è la corresponsale di Merkel in Spagna. Euro Reportage in collaborazione con Euronet Plus.